con Alfonso Biondi di Lercio per parlare del Lercio Live Show. A Roma, la festa dell'altra estate, a Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, mercoledì 10 luglio 2019. Alfonso, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Sì, Partiamo dal progetto Lercio, ce ne parli un po'? immagino, spero che gli ascoltatori lo conoscano un pochino. Noi nasciamo, come tutti sanno, in una grotta a Betlemme 2019 anni fa. Ebbene, questa diciamo è la versione ufficiale, la versione, se vogliamo, ufficiosa è che siamo nati nell'ottobre del 2012. Abbiamo iniziato questa avventura in 40 persone, eravamo tutti formati satiricamente nella palestra di Daniele Luttazzi, che era uno spazio di satira libera sul suo blog, e poi da lì abbiamo intrapreso un percorso comune che ci ha portati prima a creare un blog satirico che si chiamava Citolattico e poi Lercio. Lercio quindi è nato nell'ottobre del 2012 e quest'anno festeggeremo 7 anni. Diciamo che rispetto a quello che facevamo nel blog di Daniele Luttazzi, che era praticamente la battuta classica, no? Quella con una premessa e con una chiusa, sul Lercio abbiamo sperimentato, ed è tutta la nostra cifra stilistica, questa nuova, diciamo, tipologia di format, che è praticamente mettere le battute direttamente nel titolo. Quindi Lercio possiamo dire che è praticamente un giornale, che è praticamente un non giornale, se vogliamo, perché ha tutte le caratteristiche dei giornali che conosciamo su internet, ma appunto le notizie che dà sono notizie satiriche o umoristiche. Una satira haiku. Senti, Alfonso, la squadra si è allargata nel frattempo? No, guarda, in realtà la squadra si è rimpicciolita. Sì, perché poi magari capita che in questo percorso così lungo poi qualcuno decida di lasciare, magari per nuove avventure oppure per un percorso personale diverso da quello che era appunto Lercio. E noi praticamente quando abbiamo iniziato abbiamo stilato questo patto, se vogliamo, che visto che comunque noi già ci conoscevamo da tempo, avevamo già fatto satira assieme, ho detto: ragazzi, allora la redazione è questa, si può solo uscire ma non si può entrare. Quindi praticamente diciamo che la redazione di Lercio è una redazione chiusa, è una casta, diciamo così. Sì. Abbiamo dei contributi da anche lettori che ogni tanto ci inviano materiale, però il nocciolo della redazione adesso si compone di 23 persone, Blindato. esatto, sì, blindatissimo. Senti, come funziona quotidianamente l'attività? Raccontaci un po'. Allora, noi praticamente, come ti dicevo, siamo in 23, in base scriviamo tutti, quindi tutti scrivono, propongono ultim'ora, propongono approfondimenti, e per essere appunto pubblicati sul nostro sito c'è una serie di step che la battuta deve passare. Ti faccio un esempio: io scrivo una battuta, la metto in un postone su Facebook. Noi praticamente lavoriamo in maniera liquida perché viviamo in diverse parti d'Italia, abbiamo un redattore a Berlino, uno in Thailandia. In realtà non gli abbiamo mai chiesto perché è in Thailandia, non vogliamo saperlo, però diciamo che siamo così disseminati non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo. Quindi diciamo il lavoro avviene su Facebook e su WhatsApp, diciamo ci coordiniamo in maniera liquida. Quindi io ad esempio metto una battuta in questo post e c'è una prima votazione, quindi è proprio la redazione che con dei like o con dei voti dice: guarda, questa battuta mi piace, può andare, non mi piace, eccetera. Quindi diciamo questo è un primo step di valutazione. Quindi dopo aver superato questo step, che già di per sé elimina il 90% delle battute, si passa a un secondo step in cui ci sono proprio delle persone addette alla selezione dell'ultima ora, quindi che fanno un ulteriore controllo di qualità, e quindi questo gruppo di persone, che rispetto alle 23 iniziali è composto da diciamo 7-8 persone, quindi un gruppo più piccolino, fa un'altra votazione. Quindi cioè, la battuta va bene, no, la battuta può essere diffamatoria, la battuta la metterei così. Qui si fanno anche degli aggiustamenti per quanto riguarda il ritmo della battuta, per quanto riguarda proprio le parole utilizzate, e poi una volta passato quest'altro step la battuta viene pubblicata. Quindi diciamo ci sono diversi controlli di qualità, c'è cioè una sorta di decisione più democratica possibile, e questo processo, che comunque può avere delle falle perché dal punto di vista della velocità a volte non ci premia, però fa sì che le battute che siano sul sito siano appunto le migliori, almeno secondo noi. The best of. insomma. Sì, diciamo così. E poi quando è subentrata la dimensione dal vivo? Ecco, guarda, questa idea di portare quello che scriviamo sul palco è nata poco dopo la nascita di Lercio, diciamo un annetto dopo, perché nel 2013 già ci pensavamo, però la cosa si è, diciamo, concretizzata un pochino nel 2014, quando è uscito il nostro primo libro, che era Un anno Lercio, edito da Mezzoli. Durante le presentazioni dei libri improvvisavamo dei telegiornali, dei quiz con il pubblico, e comunque vedevamo che questa tipologia di umorismo faceva molto molto presa anche live, quindi non solo mai rileggendole su internet, ma proprio veramente recitando queste battute. Quindi da lì abbiamo provato a strutturare proprio un live con diverse rubriche, che poi è quello che praticamente porteremo in scena a Casetta Rossa il 10 luglio. Quindi diciamo che è un live in cui ci sono tante rubriche, si parte ovviamente con il telegiornale, che è il nostro marchio di fabbrica, poi faremo vedere appunto dei fraintendimenti. Non so se tu sai questa cosa, ma molto spesso, soprattutto in passato, tantissime persone prendevano per vere delle nostre notizie, appunto per quello che siamo all'inizio, perché c'era, cioè, un format molto diverso da quello che si vedeva qualche anno fa. Quindi succedeva spesso che, visto che il nostro layout è quello di un giornale classico, molte persone cambiavano Lercio appunto per un giornale classico e credevano alle nostre notizie praticamente inverosimili. Questa è una cosa che ci faceva ridere un sacco, oggi capita molto di meno, ma ci fa ridere comunque tantissimo. E quindi porteremo, cioè il telegiornale, questi fraintendimenti che sono sempre divertentissimi, poi anche qualche alterco che abbiamo avuto con dei VIP, e anche, diciamo, il nostro quiz, quello classico, quello del vero Lercio, in cui sfidiamo proprio il pubblico a indovinare se appunto una notizia messa lì senza contesto è stata scritta da noi oppure da un giornale tradizionale. Poi sì, cioè, diciamo, uno spettacolo di un'oretta circa, un'oretta e un quarto, poi abbiamo anche l'oroscopo, abbiamo tante cose e ci divertiamo tantissimo noi a farlo, e ovviamente spero anche il pubblico appunto a vederlo. Una curiosità, diciamo, il successo di Vaste Dimensioni è arrivato gradualmente o c'è stato proprio un passaggio cruciale? Possiamo dire gradualmente, però ci sono state, se vogliamo, delle tappe più significative di altre. Se dovessi citarne una, cito questa. Praticamente noi eravamo nati da circa 3 mesi, quindi eravamo praticamente dei novellini, e come dicevamo prima, qualcuno ogni tanto prendeva per vedere le nostre notizie. Fino a quando Andrea Bonecchi, che è un nostro redattore di Prato, ha scritto questa notizia: errore nel sistema operativo, Radio Maria passa i Megadeth. Che è, diciamo, una notizia che letta così, cioè, sembra strana, però può avere anche un qualcosa di verosimile. Però poi, leggendo l'articolo, si parlava di un ragazzo che si chiamava Pio Settimino, che si sbarbava le palle a sentire tutto il giorno preghiere, e che appunto per sbaglio aveva messo questa pennetta USB, non si sa dove, ed erano iniziate a partire delle canzoni metal su Radio Maria. Alla fine a questo Pio Settimino era stata data una penitenza di 50.000 euro e 3 Ave Maria, comunque un articolo abbastanza inverosimile, un articolo che però iniziò piano piano a rimbalzare su diversi blog, poi anche qualche piccolo giornale lo rilanciò, fino a quando apparve su Repubblica XL, che è un pochino la parte lifestyle, tendenze, musica di Repubblica. E poi da lì praticamente divenne super virale questa notizia, tant'è che il giorno dopo dovette smentirla proprio Padre Livio in persona, cioè il direttore di Radio Maria. E io ovviamente l'ho iniziata a Google, però lì iniziamo ad avere un po' di attenzione che prima non avevamo, perché eravamo nati da poco, eravamo molto piccoli, e diciamo questa fu la prima, se vogliamo, botta di notorietà, e poi ne abbiamo avute anche altre. Però, diciamo, visto che eravamo piccolini ed eravamo proprio giovani, nati da pochissimo, lì, diciamo, Lercio iniziò ad essere abbastanza conosciuto. Poi, come dicevamo, è stato un percorso, diciamo, graduale. Sì. Un'ultima curiosità, ci dicevi delle origini luzzaziane. Ecco, più in generale, altri riferimenti vostri rispetto alla satira? Sì, dobbiamo partire da questo presupposto, che essendo comunque 23, ognuno ha dei riferimenti particolari, ognuno ha anche un suo stile, però sì, ci sono comunque dei riferimenti, se vogliamo, comuni, che fanno sì che comunque la linea editoriale di Lercio sia una linea editoriale abbastanza omogenea e che lo stile proprio di Lercio sia riconoscibile. Quindi possiamo parlare ad esempio della stand-up comedy americana, okay, quella tradizionale ma anche quella attuale, quindi se vogliamo andiamo da anche Woody Allen, che è stato uno stand-up comedian con il suo stile particolare, ma anche vari George Carlin, Bill Hicks, fino agli attuali, non so, Louis C.K. per esempio. Poi ovviamente riferimenti italiani, sì, quindi parliamo di Del Male, del Vernacoliere, di Cuore, che sono state delle riviste storiche satiriche italiane. Tra l'altro il Vernacoliere esiste ancora, è l'unico che esiste ancora. E poi ovviamente magari anche i nostri, se vogliamo, i lerci delle altre nazioni. Ad esempio negli Stati Uniti esiste il The Onion, che fa, diciamo, da molto più tempo quello che in Italia facciamo noi, è nato, se non sbaglio, negli anni 70-80, e anche il Lyon è un riferimento, diciamo, abbastanza importante per noi. Okay. Poi ovviamente anche questo governo, e non ci scordiamo che questo governo per noi è un riferimento satirico imprescindibile, non sapremo mai fare meglio, sì, assolutamente. Sì. Ci lasciamo con una notizia? Va bene, allora ovviamente invito tutti gli ascoltatori a venirci a vedere il 10 luglio a Garbatella, a Casetta Rossa. Potranno venire come vogliono, ovviamente c'è anche la metro B che porta a Garbatella, tra l'altro Casetta Rossa è vicinissima alla fermata Garbatella, e quindi io vorrei lasciarvi con una battuta sulla metro B. Qualche volta passa, qualche volta si vede, qualche volta non si vede, e questa è la nostra battuta. Roma aspetta la metro B e invece arriva Godot. Perfetto. Allora, ricordiamo l'appuntamento alla festa dell'altra estate a Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, con il Lercio Live Show, mercoledì 10 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Alfonso Biondi. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, un bacione a tutti. Ciao.